detto tu. Ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, forse vuoi dirmi ancora no. Soffrendo per me. E nei tuoi occhi che piangono, mille ricordi non muoiono, perdonami se puoi, e resta insieme a me. Tra di noi forse nascerai.